In mezzo al mar c'è un uccellino che si vorrebbe riposare, ma non sta a galla, poverino, come deve fare? E sopra un albero c'è un pesce che ha tanta voglia di nuotare, ma tra le foglie non riesce. Vorrebbe riposare, ma non sta galla,